è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento. I numeri per chiamarci in diretta: il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. andiamo subito ai titoli di TG2. In Germania il presidente americano Barack Obama rende omaggio alle vittime dei lager nazisti e si rivolge all'iraniano Ahmadinejad: chi nega l'olocausto dovrebbe venire qui. Confessano il rapimento ma non il delitto i due uomini fermati nel bolognese per l'omicidio del consulente finanziario che si è sequestrato lunedì, movente un inesistente tesoro da milioni di euro. Non è in pericolo di vita il sindaco di una cittadina del pavese ferito al volto da colpi di pistola, arrestato l'aggressore che avrebbe agito per rancori verso il comune. Si infittisce il mistero dell'Airbus scomparso nell'Atlantico. I rottami trovati non sono quelli dell'aereo, dicono i brasiliani, ma appartengono a una nave. Le ricerche continuano. Andiamo a sentire cosa ci propone Studio Aperto. Meno di 24 ore all'apertura delle urne. Domani e domenica si vota per europee amministrative. La campagna elettorale ha le ultime battute tra appelli e immancabili polemiche. Richiamo del garante della privacy ai media sul caso degli scatti rubati a Villa Certosa. È stato ucciso e sepolto in un bosco l'ex agente di borsa rapito lunedì scorso a Bologna. Fermati due italiani, secondo gli inquirenti, gli assassini erano convinti che la vittima nascondesse un misterioso tesoro. Una romana di 34 anni è stata violentata nel garage sotto casa. L'uomo a viso coperto l'ha minacciata con un coltello e legata con nastro adesivo. A Genova, un bidello che ha molestato 16 ragazzine ora è libero, unico obbligo curarsi. In Germania Obama visita il lager di Buchenwald, rende omaggio alle vittime del nazismo, resta l'indignazione per quanto è avvenuto, dice. Bene, 18:38 800 24 00 24. Berlusconi ha appena annunciato una querela nei confronti dell'Unità. Sono parole di Berlusconi durante la registrazione di Matrix. Annuncio una querela nei confronti dell'Unità che ha detto una grande menzogna e ho già incaricato i miei avvocati di querelarle e di chiedere i danni. Cosa è successo? L'Unità questa mattina ha pubblicato un articolo, vi leggo il titolo: aerei ed elicotteri Fininvest diventano voli di Stato. La Presidenza del Consiglio ha dato la qualifica di volo di Stato ad aerei ed elicotteri di compagnie private che fanno capo a Fininvest. Dare la qualifica significa che quegli aeromobili devono servire a consentire l'efficace svolgimento, eccetera, eccetera. Significa soprattutto che quegli stessi mezzi per assolvere a questa funzione saranno pagati con soldi pubblici, soldi nostri, dei cittadini contribuenti che finiscono nelle casse di un gruppo che fa capo alla famiglia del Presidente del Consiglio. Sintetizzando, questo è l'articolo firmato da Claudia Fusani, sintetizzando pare di poter dire che lo Stato affitta da Berlusconi gli aerei che servono al Presidente Berlusconi per svolgere in sicurezza le mansioni di Premier. A meno che l'affitto degli aerei non avvenga a titolo gratuito, cosa in linea di principio anche possibile, siamo non solo in un evidente conflitto di interessi, ma anche ben oltre il reato di peculato, scrive la Fusani. Poi c'è il documento dell'ENAC che prova come appunto l'aviazione civile comunichi alle direzioni aeroportuali che 5 nuovi mezzi aerei ed elicotteri privati che fanno capo a due società Fininvest possono essere, abbiano la qualifica di volo di Stato. Berlusconi cosa dice attraverso il suo avvocato Ghedini? Dice che tutto è pagato da Fininvest, dunque non c'è un soldo messo dallo Stato, e dice anche che ci sono esigenze di sicurezza che hanno fatto sì che questi aerei, e solo esigenze di sicurezza, abbiano la qualifica di volo di Stato. Ma andiamo a sentire il Presidente del Consiglio quando parla stamattina a Radio Anch'io su Radio Rai della questione delle foto. Le 5 foto pubblicate sul quotidiano spagnolo El País, foto di vita vissuta all'interno di Villa Certosa con nudi vari, tra cui quello di Topolánek, l'ex primo ministro ceco. Sentiamo. Scusi, lei quando fa la doccia si tiene la giacca e la cravatta? Ma non erano foto in doccia, erano foto che giravano per la piscina. No, assolutamente, erano foto di persone. Le ho qua, quelle del paese. Me le faccio vedere. Io non le ho viste tutte, per cui immagino. Ma quelle pubblicate se a un certo punto, ecco, vediamole. Qui non stanno facendo la doccia le ragazze. Queste sono persone che stanno facendo il bagno in una jacuzzi privata dentro una casa sua, che noi assegniamo. È una delle case destinate agli ospiti di una delegazione straniera. Quindi lei permetterà che queste persone si comportano come vogliono in una casa e sono state aggredite da questa volontà di entrare dentro? Cioè, queste cose sono veramente scandalose, ma non perché sono scandalo loro. È scandaloso che si possa permettere che vengano fatte delle fotografie con dei teleobiettivi da lontano, entrando nel privato e nell'intimità delle persone. Questo è il principio enunciato da Berlusconi, che poi ha annunciato querela anche nei confronti del Paes. Foto innocenti comunque. Anche se le foto sono assolutamente innocenti, non ce n'è una che può far gridare allo scandalo, io credo che si debba porre fine a questa invasione del privato. Questo Berlusconi, curiosamente, pochi giorni fa lo stesso Presidente del Consiglio aveva detto... quelle foto in realtà potrebbero anche essere pubblicabili, non le abbiamo comprate. Non so se si riferisse proprio a quelle foto, perché poi ce ne sono tante, alcune pare sfuggite anche al sequestro, quelle che il fotografo Zappedu ha venduto all'estero, lui stesso lo ha detto. Comunque Berlusconi diceva: in fondo sono anche pubblicabili, si possono anche riprodurre. Io ho visto personalmente anche le foto di cui si parla in questi giorni. Beh, fa male a descrivere, ma le foto sono assolutamente delle foto che possono assolutamente mostrarsi. Le hai viste tutte? Io le ho viste tutte, sì. No, le 60-50 che erano state date e che erano, avevano fatto giudicare dalla Mondadori non utile, non interessante acquistare il servizio. Va bene, anch'io mi sono confuso sul nome di questo fotografo, che in realtà si chiama Antonello Zappadu ed è uno dei più famosi fotografi sardi, soprattutto sulla Costa Smeralda e quello che succede intorno alla Costa Smeralda, perché mi ha fatto confondere Emilio Fede, che lo prende in giro continuamente negli ultimi giorni, storpiando il nome in vario modo, poi lo sentiremo, ma Fede è protagonista anche di un'altra performance che fra poco ascolteremo. Cioè, secondo lui, dietro queste foto c'è una sorta di trama oscura, di noir, di grande giallo, con questo Zappadu che sarebbe l'emissario di qualcuno, anche i servizi segreti deviati nomina, lo sentirete, che vuole mettere nei guai Berlusconi. Fede. Chi ha pagato Puzzeddu e come è possibile che il capo del governo sia spiato, sia per quanto riguarda l'ufficialità, vedi l'aereo di Stato, sia nel privato di Villa Certosa? E dunque l'operazione Puzzeddu sostenuta da chi? C'è da chiedersi chi lo ha pagato, chi lo ha sostenuto. Certe informazioni, certo mondo politico, pongo degli interrogativi, la complicità, per carità, mi auguro che non ci sia, di servizi segreti deviati. Perché lui fotografava da tempo, lui dice da anni, seguiva i movimenti del Presidente del Consiglio Berlusconi? Quanto c'è di rischioso per quanto riguarda la vita, la sicurezza del capo del governo, ma anche dei capi di governo, degli esponenti politici che sono stati a Villa Certosa? Vabbè, insomma, avete sentito, i servizi segreti deviati e Zappadu un pericolo. Mi risulta tra l'altro che le foto che lo stesso Zappadu fece un anno e mezzo fa, quelle con le cinque ragazze sulle ginocchia di Berlusconi sempre a Villa Certosa, non è che abbiano fatto poi arrabbiare moltissimo Berlusconi. In ogni caso, la pubblicazione secondo me è vergognosa, sia chiaro, la pubblicazione sul Paese di foto all'interno di una villa sono cose che non si dovrebbero consentire. Poi adesso ci saranno gli esposti, le querele, i tribunali, ma ormai quello che è stato pubblicato è stato pubblicato. 18:45 e le sanzioni non saranno mai durissime, perché in Italia le sanzioni sono assolutamente inesistenti. Berlusconi sta registrando Matrix e ha appena detto questa cosa. Il Presidente del Consiglio normalmente usa gli orari di volo per lavorare. Ad esempio, sul volo Milano-Roma l'ultima volta ho portato dei grafici con cui sto lavorando a un logo per promuovere l'Italia all'estero e mi è venuto in mente Magic Italy. Non è bello? Lo ha detto Berlusconi, appunto, parlando a Matrix sulla questione dei voli di Stato, ribadendo che c'è una norma che prevede che il Presidente del Consiglio possa invitare chi vuole sui voli su cui parte. Magic Italy, l'ultima invenzione di Berlusconi, proprio su un volo Milano-Roma, un volo dell'aeronautica militare, immagino. Dove andiamo? Andiamo alla Spezia. Francesco, buonasera. Buonasera, dottor Crociani. Dica. Io voglio intervenire sul... secondo me il fatto un po' vergognoso della pubblicazione delle foto di Villa Certosa al Paese, ma secondo me la cosa più vergognosa è la pubblicazione di regionale La Repubblica, che ha riprodotto la pagina del Paese e raggirando quindi, se vogliamo, l'ordinanza della magistratura del sequestro delle foto. Io non so se siano le stesse foto sequestrate, però francamente non lo so. Può darsi di sì, può darsi di no. Ieri in un piccolissima intervista sempre su Repubblica, Antonello Zappato, il fotografo, diceva: prima o poi usciranno, perché quelle foto sono state vendute prima della polemica e dell'inchiesta a un'agenzia fotografica straniera. Può darsi che siano le stesse, può darsi di no. Comunque erano, secondo Zappato, sono state vendute prima. Ho capito. Ciò non toglie che secondo me è vergognoso pubblicarle, però. Anch'io sono molto strumentale, specialmente. Bisogna dire che qualche volta gli uomini potenti, adesso al di là del merito, amano farsi fotografare anche nelle proprie case. Non è che sempre seguano querele, denunce, eccetera. Ripeto, la foto di Berlusconi con le ragazze sulle sue ginocchia, che risale credo alla fine del 2007, credo sia stata realizzata con le stesse modalità, con gli stessi teleobiettivi, la stessa distanza, e credo anche dallo stesso fotografo. Non mi pare siano seguite querele, per cui insomma, è vero che non si devono pubblicare, però non sempre poi scattano le stesse reazioni. La ringrazio. Davide, provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera dottor Crociani e complimenti per la trasmissione. Niente, io volevo solamente dire che al di là delle foto o della polemica, trovavo scandaloso il fatto che praticamente tutta la campagna elettorale sia stata incentrata, secondo me soprattutto da Dario Franceschini e dal suo partito, su il gossip su Berlusconi. Insomma, al di là che non si vogliono togliere colpi o giustificare niente, però secondo me il problema, parlo anche dal lavoratore indipendente in proprio, sono ben altri in questo momento per il paese. E non scopriamo oggi la natura di Berlusconi, che è quella di essere un personaggio molto pubblico, che faceva giocare il Milan con i pantaloncini bianchi anziché neri perché si vedeva meglio con le telecamere. Però voglio dire, quando il segretario della Presidenza del Consiglio è stato fotografato anni fa, la polemica è stata molto più breve e nessuno dopo è andato a dire: ma andava coi trans, non andava coi trans, era vero, non era vero. Guardi, le due cose, mi scusi un attimo, le due cose non c'entrano assolutamente nulla, però. Ma secondo me, voglio dire, la polemica su Sirkin è stata molto più veloce che su quella che su Berlusconi. Il paese ha bisogno di altro, secondo me, in questo momento. Questo sicuramente. La campagna elettorale, voglio dire, le aziende che assumono, perché non hanno degli sgravi fiscali, perché non viene proposto questo, perché non viene proposto a chi deve cambiare la macchina per lavoro, agli agenti di commercio, un incentivo pari a quello della rottamazione sulle piccole vetture, a chi fa dei figli, ai ragazzi, ai giovani come me che 27 anni che vorrebbero sposarsi oppure no, un incentivo. Cioè, tutto questo non è stato parlato, sarebbero tutte idee. Sì, Davide, io però, lei ha perfettamente ragione, però non è che bisogna parlarne adesso perché c'è la campagna elettorale, perché questa campagna elettorale è per le elezioni amministrative di una serie di comuni, di province, e dunque insomma si dovrebbe parlare soprattutto di fatti locali. Secondo, si dovrebbe parlare di Europa o del nostro ruolo all'interno del Parlamento europeo, di cosa vogliamo fare. Gli argomenti di cui lei parla sono interessanti, ma sono argomenti di discussione che dovrebbero essere, come dire, quotidiani, non legati per forza a una campagna elettorale che, come al solito, in Italia ha assunto i connotati del parossismo, perché quando, ripeto, c'è un partito che vuole superare a tutti i costi il 40%, un altro che vede nelle elezioni europee una sorta di ultima spiaggia per la sua sopravvivenza come il Partito Democratico, significa che c'è un'interpretazione delle elezioni totalmente errata, totalmente sbagliata. Sì, è vero. La ringrazio, Davide, la ringrazio molto. Paolo, provincia di Alessandria, buonasera. mister dottor Cruciani. Senta, io sono abbastanza incredulo di quanto stia occupando la televisione, la radio, tutto Berlusconi. C'è solo lui, o per il calcio, o per la politica, è dappertutto. Dappertutto c'è lui, è sempre intervistato. Paolo, mi perdoni, però le faccio osservare che poi faremo i conti naturalmente dei vari minutaggi, delle varie cose, no? Lo ha già fatto qualche giorno fa anche l'Osservatorio di Pavia. Oggi Mediaset ha riequilibrato, sembra, lo spazio dedicato ieri a Mattino 5 da Berlusconi, sembra. E quello che lei ha sentito di Berlusconi a Radio Rai, cioè era stato ospite anche Franceschini a Radio Rai qualche giorno fa, cioè le stesse trasmissioni in cui è stato Berlusconi c'è stato anche Franceschini. Sto parlando di Sky, sto parlando di Radio Rai, sto parlando di Porta a Porta, sto parlando di Matrix. Berlusconi ha concentrato tutto negli ultimi giorni, punto. Poi che il governo sia più presente, quello è sempre successo anche col governo Prodi, anche col governo Berlusconi, anche con i governi di centrosinistra prima, o no? Guardi, già la parola riequilibrare vuol dire che è già stato rotto un equilibrio. No, ma riequilibrare intendo, forse era programmato prima, io non lo so, oggi si raccontano diverse retroscene su questo. Io le dico, io non lo amo, per cui non è un problema, ma io trovo che sia tutto in questa nazione oramai completamente sfalsato dalla presenza di quest'uomo, che sfalsa tutto, cioè non c'è più niente, siamo tutti a combattere contro di lui, poi a favore ma chi, di lui. Ma perché bisogna combattere contro Berlusconi, mi spieghi? È questa la malattia, la malattia è questa, che bisogna combattere contro qualcosa, bisogna fare lotta politica in maniera normale, senza combattere contro qualcuno. Le spiego il perché, posso spiegarle? Perché Prego. La forza di quest'uomo è talmente più forte di quella degli altri, che non c'è verso, lei prende al povero Franceschini. E infatti ha perso due volte le elezioni Berlusconi, così. Ha perso due volte le elezioni, lei lo sa meglio di me come ha perso le elezioni la volta scorsa, perché poi ha preso più voti per una questione. Quando perde non va bene, quando vince non va bene mai allora. No, non va bene che un uomo con la sua potenza, con la sua forza... Faccia politica. Sì, perché anche quando lo intervistano, io glielo se ne faccio una ragione, però è 14 anni che va avanti così. Lo so, però quando vedo intervistare lui, lo posso assicurare, è come quando io vado dal mio principale, ho sempre paura che questo qua di mettermelo contro, perché poi mi finisce male. Cioè, è proprio alla fonte il nocciolo sbagliato, che non esiste, che questo qua, anche nel calcio, c'è sempre lui, cioè uno che poveraccio non lo sopporta. Sta facendo veramente un inferno perché non se ne può più veramente. Va bene. Grazie. Guardi che... Scusi. No, prego. Non c'è problema. Ossessione Berlusconi, per carità, non ce l'ha solo lei Paolo, anzi forse lei ce l'ha piuttosto attenuata o non simile a quella di altri. Andiamo a sentire il TG3. Berlusconi querela il Paese Repubblica per le foto proibite, violazione della privacy, critiche a Draghi, sbagliati dati sui precari. Franceschini no all'astensione, in gioco la qualità della democrazia, l'Italia volti pagina come hanno fatto gli USA con Obama. Ultimi appelli al voto dei partiti, domani alle urne si vota dalle 15 alle 22, poi domenica dalle 7 alle 22. Obama nel lager nazista di Buchenwald, questo luogo è una risposta a chi nega l'olocausto, Ahmadinejad dovrebbe venire qui. Non sono dell'erba, scomparso i rottami trovati in Atlantico dalla marina brasiliana, il mistero resta. Aveva un accento romano, l'uomo che a Roma ha minacciato con il coltello e violentato una donna nel garage di casa. Il processo per la morte dei 5 operai intossicati a Molfetta, un piccolo apparecchio avrebbe potuto evitare la strage. A Venezia si apre nel segno del confronto la 53esima Biennale dell'Arte, dall'Italia un omaggio al futurismo. Eccoci qui, 800 24 00 24, sentiamo anche Sky TG24. Foto di Villa Certosa a fondo di Berlusconi, querelati del Paese Repubblica. Il gossip ha danneggiato noi, dice Franceschini, che poi invita a votare. Da Di Pietro ancora accuse al Premier e ostaggio della Lega, dice Casini. Una parte d'Europa ha già votato, in Olanda avanza la destra xenofoba. Obama nel lager di Buchenwald, qui c'è la risposta a chi nega l'olocausto. La disoccupazione americana vola, il petrolio torna oltre i 70 dollari. In Brasile mistero sulla sciagura aerea, i rottami non sono del volo Air France. Un folle spara al sindaco di un comune nel Pavese, all'origine vecchi rancori. Consulente finanziario ucciso nel bolognese, caccia i complici dei due fermati. È ufficiale, Ferrara allenerà la Juve, Zenga Palermo in un mare di polemiche. Eccoci qui, 800 24 00 24. Sentite questo altro estratto di Berlusconi da Radio Anch'io di questa mattina sui voli di Stato. In che modo Berlusconi giustifica l'aumento che pare esserci stato, anche secondo lui, dei voli di Stato nell'ultimo anno rispetto al governo Prodi? Sembra incredibile, ma Berlusconi dice perché lavoriamo di più. I voli di Stato sono per il Presidente del Consiglio quasi imposti. Ne abbiamo fatti di più del precedente governo perché abbiamo lavorato molto, ma molto di più, e siamo capitati nel bel mezzo di una crisi globale che ha portato me e molti ministri ad andare più volte in Europa, nel Medio Oriente, in America, e quindi non c'è nessun paragone possibile tra il numero dei voli del precedente governo, che aveva tra l'altro come ministro degli esteri un certo D'Alema, che ama abbracciarsi a esponenti degli Abdullah, come si chiama? Scusi, stamattina evidentemente non sono ancora completamente sveglio. E invece il nostro Frattini, che è stimatissimo in tutto il mondo, che ha dei rapporti straordinari e continuativi con la signora Clinton, segretario di Stato americano. Ma scusate, ma che c'entra D'Alema, che ha rapporti con gli Abdullah, che poi sono gli Hezbollah, sempre secondo Berlusconi, e Frattini, che invece è stimatissimo dalla questione dei voli di Stato? Ma si vede che stamattina, evidentemente, prima di andare negli studi della Rai, Berlusconi era ancora un po' assonnato, come lui stesso dice, perché non c'entra assolutamente nulla. E poi, perché giustificare l'aumento dei voli di Stato col fatto che il governo ha lavorato di più rispetto al governo Prodi? Ma è un'assurdità una cosa di questo tipo. Basta semplicemente dire che i voli di Stato, secondo il governo, servono, punto. Artisti a mie spese sopra gli aerei, sentite. Se il Presidente del Consiglio offre a suo complete spese un soggiorno e poi per la fine del soggiorno una cena con uno spettacolo che vede impiegato numerosi artisti, e porta e uno di questi artisti non è riuscito a recarsi in loco nel giorno precedente, mi sembra assolutamente chiaro che se non c'è un volo di linea possibile da prendere, questo artista approfitti senza che ci sia nessun costo per lo Stato e venga con il Presidente del Consiglio là dove deve fare un servizio che rientra in tutto ciò che il Presidente del Consiglio fa a sue complete spese nei confronti di un leader di un altro paese che è totalmente ospitato a spese del Presidente del Consiglio nella casa del Presidente del Consiglio. Va bene, ancora Berlusconi in questo finale di campagna elettorale, sono state spiegate e dette molte cose, ci si è concentrati soprattutto, direi tristemente, sulla questione dei voli di Stato, anche se sui voli di Stato qualcosa da spiegare c'è, non solo per l'aumento dei voli di Stato, ma anche, come sapete, insistiamo noi da tre giorni su questo, su chi sale su questi voli. Berlusconi, sulle foto invece pubblicate questa mattina dal Paese, riprese da diversi siti italiani, tra cui Repubblica, ed è questo il motivo, credo, per cui a Matrix Berlusconi dice: querelo non solo il Paese ma anche Repubblica. Sentite. Foto prese con l'uso di potentissimi teleobiettivi, che sono andati a prendere delle persone in una residenza privata, addirittura dentro le stanze di questa residenza, al di là dei vetri delle finestre. E quindi annuncio qui ufficialmente che io proporrò querela e inizierò una causa civile per danni nei confronti del Paese e nei confronti di Repubblica. E nei confronti di Repubblica, immagino, perché ha ripreso queste foto riprese in realtà anche da altri siti. Ho visto per esempio Corriere.it, però adesso ne mette solo una. Credo che sono state messe anche tutte le altre precedentemente. Comunque, 800 24 00 24. Emilio Fede, il caso Emilio Fede, che se la prende da qualche giorno con il fotografo autore degli scatti, Antonello Zappadu, e se la prende in questo modo, vedendo dietro queste foto una macchinazione, una trama oscura, addirittura i servizi segreti deviati che possono minacciare Berlusconi. Emilio Fede. Chi ha pagato Puzzeddu e come è possibile che il capo del governo sia spiato sia per quanto riguarda l'ufficialità, vedi l'aereo di Stato, sia nel privato di Villa Certosa? E dunque l'operazione Puzzeddu sostenuta da chi? C'è da chiedersi chi lo ha pagato, chi lo ha sostenuto. Certe informazioni, certo mondo politico, pongo degli interrogativi, la complicità, per carità, mi auguro che non ci sia, di servizi segreti deviati. Perché lui fotografava da tempo, lui dice da anni, seguiva i movimenti del presidente del Consiglio Berlusconi? Quanto c'è di rischioso per quanto riguarda la vita, la sicurezza del capo del governo, ma anche dei capi di governo, degli esponenti politici che sono stati a Villa Certosa? Perché seguiva i movimenti del presidente del Consiglio Berlusconi? Una risposta si deve dare subito: per fare 4 lire, per ricavare qualche decina di migliaia di euro dalla vendita di queste foto. Questa è la realtà, non c'è nessun servizio segreto deviato, secondo me. Basta chiamare casa, come abbiamo fatto noi, casa Zappato, e rendersi conto di chi risponde, per capire che non c'è nessun servizio segreto deviato, insomma, intorno e dietro la famiglia Zappadu. Sono semplicemente delle normali persone che vivono lì. Uno di loro fa il fotografo e si guadagna da vivere in questa maniera. Fede però storpia questo nome, quello di Antonello Zappadu. Avete sentito prima che ha detto Puzzeddu, un po' per prenderlo in giro, sentite. Però che cosa fa il Puzzeddu di turno? Racconta a qualche giornale più che amico qual è il contenuto di quelle foto. Cioè questo signore, dico la parola signore fra virgolette, che cosa ha fatto? L'ha detto lui in una dichiarazione, ha ammesso che da tre anni lui era impegnato con il suo teleobiettivo, quindi illegalmente, perché il teleobiettivo, ve lo ricordo, può agire. Domanda d'obbligo, spiare per 3 anni, non è per caso un reato perseguibile non soltanto con le ammende, o piuttosto non potrebbe essere anche previsto l'arresto, ammenda? Ma in un paese civile c'è l'arresto. C'è l'arresto per questo signore? Addirittura l'arresto per Zappadu. Andiamo con gli ascoltatori, andiamo subito con gli ascoltatori. E siamo con Vittorio da Siracusa. Buonasera. Buonasera. Prego. Mi sente, dottor Cruciani? La sento. Ah, ma è facendo. Mi scusi, io avrei bisogno di 1 minuto e mezzo, 2 domande soltanto. Dica. La prima domanda è così: Berlusconi sta preparando a fare tutti questi processi contro i giornali, speriamo che non incappi in una toga rossa. La seconda domanda è rivolta a lei, mi dispiace. Credo non si deve arrabbiare, dottor Cruciani. No, non mi arrabbio, dica pure. Senta, lei pochi giorni fa aveva detto che per ragioni di Stato un presidente non si deve dimettere per sciocchezze. Io non ho, allora, detto, la domanda no, è questa. Non ho detto mai una cosa di questo tipo. Ma super giusto, il senso era quello, le parole non erano quelle. Il senso non era quello e le parole non erano quelle. Ecco, cosa vuole dire, al di là di quello che ho detto io, cosa ci vuole comunicare? Ecco, volevo domandare a lei cosa deve fare un presidente perché lei dica presidente si dimetta. Ma non lo so, ci sono tanti motivi e tante situazioni per le quali un presidente del Consiglio si dimette. Non è che esistono delle regole scritte: un presidente del Consiglio si deve dimettere quando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalmente quando perde la fiducia della sua maggioranza, questo accade. Le faccio notare, per esempio, che in Gran Bretagna, dove si sono dimessi una serie di ministri, il premier Gordon Brown, nonostante i sondaggi molto bassi e nonostante questo scandalo sui rimborsi, oggi ha detto: non mi dimetto, penso ancora di essere utile al paese. Insomma, non è, le dimissioni di un presidente del Consiglio, di un premier, sono sempre un passaggio molto delicato per uno Stato, per una democrazia. La ringrazio. Michele, provincia di Napoli, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Intanto mi scusi, oggi un capogruppo, quello del Partito Democratico alla Commissione Giustizia alla Camera, si chiama Donatella Ferranti, ha pronunciato queste parole. È seguita una querela da parte dell'avvocato di Berlusconi. Sentite le parole. Berlusconi è un idrovora. Berlusconi è un idrovora che succhia denaro pubblico per imbellettare le sue proprietà immobiliari, per pagare gli artisti Mediaset e per trasformare gli aerei e gli elicotteri della Fininvest in aerei di Stato a spese dei contribuenti. Questo è stato detto da Donatella Ferranti, capogruppo del PD nella Commissione Giustizia della Camera. Prego, Michele. Guardi, lei ha fatto proprio bene a mettere in risalto questo tipo di modalità di comunicare questi argomenti, che sono proprio, secondo me, il vuoto più assoluto. Sono molto deluso da come cioè dalla strategia che ha seguito il Partito Democratico in questa campagna elettorale, perché ritengo che sia stato proprio un suicidio totale, nel senso che tutto mi sarei aspettato fuorché ritrovarmi dopo tanti anni una sinistra che sfodera argomenti bigotti e moralisti. Cioè, quel signore che un po' di tempo fa ha evidenziato che Berlusconi è presente dappertutto, si parla sempre di Berlusconi, e purtroppo è la sinistra che non chiude certi argomenti, capisce? Nel senso, siamo andati, cioè vogliamo giustificare l'invasione della privacy giusto perché si tratta di Berlusconi, ma questi probabilmente non hanno capito che all'italiano farebbe piacere se si mette uno a 500 metri di distanza con un teleobiettivo e guarda in casa propria. Cioè, no, questo è bene, Michele. Infatti oggi mi sarei aspettato qualche presa di posizione sulle foto da parte di esponenti del Partito Democratico, sulla pubblicazione delle foto da parte del Paese, invece non è venuto nulla. C'è anche da aggiungere, però, ripeto, che in occasioni diverse, diverse temporalmente, ma più o meno simili, non sono scattate le querele, non sono scattate le denunce, e erano state fatte delle foto con le stesse modalità, ritraendo, cioè, scena di vita interna a Villa Certosa. La ringrazio, Michele. Claudio da Parma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Grazie per aver chiamato. Senta, io volevo parlare di questo. Io sono un attento osservatore, nel senso, cerco di guardare più giornali di diverso orientamento, italiani ed esteri, e noto da qualche tempo che lo spessore, una volta si chiamava così, di livello culturale, qualitativo, meglio qualitativo, di questi giornali si sta abbassando a velocità impressionante. Cioè, oggi per fare audience, o meglio per arrabbiare lettori, si è disposti a mettere in prima pagina, come è successo nel Paese oggi, una foto rubata da lontano di due signori sotto una tettoia con dei cappotti. Non lo so, io volevo così far emergere questo che secondo me è un problema, perché veramente si sta parlando da mesi, credo, del nulla, da mesi di una ragazza di Napoli, poverina, che non c'entra nulla. Si sta parlando da giorni, se ne sta parlando con una certa veemenza a livello internazionale, di foto di gente privata che sta in una casa privata. Non crede anche lei che siamo arrivati a un punto veramente triste dell'informazione, del giornalismo? Io so che quando lei si parla di giornalismo lei si chiude un po' a riccio, è un po' sulla difensiva, la posso capire, il suo lavoro, però mi piacerebbe conoscere il suo giudizio un po' più intimo. So di chiedere tanto perché la radio intimo ci può essere poco, ma se coglie anche lei questa difficoltà del giornalismo attuale di fare veramente comunicazione che sia un po' più a un livello un po' più alto del semplice gossip, insomma, del semplice creare dei titoli per acquistare lettori, acquistare audience. Beh, Claudio, lei ha ragione, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, nonostante il fatto che ci siano stati, insomma, che ci siano giornali che parlano comunque attraverso interviste, inchieste delle elezioni europee, insomma dei temi dell'Europa, e anche dei temi principali delle elezioni locali in Italia si è parlato ben poco. I giornali si sono concentrati da un mese a questa parte soprattutto sulla vicenda Noemi, adesso sulla vicenda delle foto, perché naturalmente sono questioni che hanno suscitato tematiche più comunque importanti, cioè il comportamento di un Presidente del Consiglio, le frequentazioni di un Presidente del Consiglio. Poi certo, l'insistenza di alcuni media hanno provocato reazioni, controreazioni, insomma i media sono stati occupati, l'informazione è stata occupata per un mese da questi argomenti. Forse perché non ce n'erano altri interessanti, non lo so, io sono abituato a riflettere su quello che c'è quotidianamente, non a pormi problemi diciamo più generali di filosofia su cosa discute oggi il giornalismo italiano. Penso che ci sia un po' di tutto sulla stampa e sui giornali, per chi si vuole interessare di Europa ci sono gli spazi di approfondimento. Certo, le prime pagine sono occupate da questi temi, non c'è dubbio. La ringrazio. Sebastiano da Milano. Sì, buonasera dottor Cruciani. Mi ricollego subito a quanto lei ha appena detto. Io credo che noi italiani abbiamo la capacità di prendere un po' il peggio di tutto quello che... assorbire il peggio di quello che vediamo all'estero. Questo gossip, questo... una sua collega mi chiedeva se era il teleobiettivo a violare la privacy, ma in realtà non è solo il teleobiettivo a violare la privacy, anche un obiettivo grandangolare può violare la privacy. All'estero, se guardiamo i paparazzi a Los Angeles dove inseguono le celebrity pur di ottenere una fotografia, il problema è la connivenza che c'è tra fotografi e fotografati. Quando nel momento in cui fa comodo si può fotografare e riprendere tutto, nel momento in cui non fa comodo non si può. Trovo che sia un po' troppo facile ridurre tutto a delle cose così. E noi in questo momento la nostra politica e la nostra società sta prendendo il peggio dei giornali stranieri. Funziona che i paparazzi vanno bene quando fanno gli scoop, ma non funzionano quando invadono la privacy. Ci vorrebbe un po' più, credo, di equilibrio, di... Non lo so, Sebastiano, non so a cosa si riferisce lei. Io ho semplicemente detto prima che le foto per cui oggi riprese all'interno di Villa Certosa, per cui oggi Berlusconi annuncia querele nei confronti del Paese, di Repubblica, di queste foto ne sono state pubblicate, credo simili, un anno e mezzo fa, e non mi sembra che siano scattate le querele, non mi sembra che siano scattate le denunce, credo fatte dallo stesso fotografo, o no? Le persone interpretano le cose a seconda di come gli fa comodo, questo dico. Che si tratti però di una violazione della privacy, anche su questo mi sembra non esserci dubbi, così dice il garante. Ripeto, mi sembra strano che oggi dall'opposizione non sia venuta una parola su questo, perché in ogni caso mi sembra una chiara violazione della privacy. La ringrazio. Paolo da Torino. Buonasera Cruciani. Prego. Una cosa che io ragionavo è, mi metto io nei panni di Berlusconi o lei o il Presidente della Repubblica, se avessi una persona fuori casa che per 3 anni mi tiene il teleobiettivo puntato sulle finestre di casa mia e spia mia moglie, i miei figli, tutti quanti, è una cosa che mi fa pensare e non riesco a capire come mai ci sia tutta una polemica che gira intorno a questa cosa qua, invece che poi alla fine parlare di politica o di quello che si deve parlare per le europee e tutto quanto. Ecco, mi sembra una cosa un po' fantascientifica, non so cosa ne pensa lei. Cos'è fantascientifica? Cioè che alla fine stiamo a discutere che c'è una persona che per 3 anni mi spia dentro casa e non parliamo di politica fondamentalmente, e che ci giustifichi un po' il fatto che questa persona sia stata lì e abbia fatto quello che ha fatto. Queste cose esistono, che ci siano delle persone che si appostano nei luoghi più sensibili per fare le foto, sono cose che esistono in tutte le parti del mondo. Evidentemente la protezione di Berlusconi non è così forte, evidentemente è possibile, mettendosi, non so, su una piccola montagnetta da 1 chilometro con il teleobiettivo fare delle foto. Ripeto, la protezione di Berlusconi non deve essere particolarmente agguerrita da questo punto di vista. Altre volte credo, non dico che ci sia connivenza, però altre volte Berlusconi ha lasciato correre quando sono state pubblicate foto sempre di scene all'interno, immagini all'interno di Villa Certosa. La ringrazio. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Padova da Carlo. Buonasera. Buonasera Cruciani. Mi ha stupito i discorsi che sono stati fatti finora, perché dicevano parliamo di politica e continuavano invece a parlare di altro. È un po' strana come argomentazione. Comunque il mio argomento invece era sul quello che ha detto oggi Berlusconi, oggi mi sembra, sul governatore Draghi, che ha detto che le affermazioni del governatore per quanto riguarda il discorso di Cococò, se sono licenziati non hanno il welfare, non corrispondono alla realtà, e che lui ha accertato invece che non è così. Poi pensi che solo 3-4 giorni prima, intervistato in televisione, Berlusconi diceva che la relazione del governatore era addirittura berlusconiana, perché era ottimista come lui. Le do una piccola notizia che non mi sembra piccola. Questa settimana Einaudi ha rifiutato un libro di Saramago. Saramago è, sì. L'ha letta questa notizia. Sì. A me questa sembra una notizia gravissima. Cioè, Einaudi ha sempre pubblicato Saramago, premio Nobel. La motivazione dell'Einaudi è che nel libro erano messe delle frasi che non erano a favore di Berlusconi. No, delle frasi pesanti su Berlusconi. Pesanti. Stiamo parlando di un libro, di un romanzo scritto da un premio Nobel. A me sembra una cosa grave. Carlo, mi scusi, a me non sembra grave per niente, nel senso che sulla prima cosa lei ha ragione, il governo Berlusconi ha la cattiva abitudine di contestare i dati negativi che vengono, i dati dell'economia negativi. Quando c'è un dato negativo, Berlusconi dice no, non è vero, è un dato esagerato. In questo caso si parlava di un dato sui precari o i lavoratori in cassa integrazione, quelli che cercano un posto, che potrebbero salire oltre il 10% secondo Draghi, e che diceva anche che c'erano 1,6 milioni di dipendenti che non ha diritto ad alcuna forma di sostegno in caso di licenziamento. Berlusconi tra l'altro aveva detto l'altro giorno a Porta a Porta che saranno tutti coperti, anche i precari, e questo mi pare piuttosto complicato che si realizzi. Su questo ha ragione lei. Su Saramago abbia pazienza, l'Einaudi può pubblicare chi vuole, se decide che quel romanzo di Saramago è sconveniente perché all'interno ci sono delle frasi pesanti su Berlusconi, non lo pubblica. Non penso che Saramago abbia difficoltà. Guardi, di libri anti-berlusconiani o di libri che contengono delle cose contro Berlusconi sono piene le librerie italiane. Non penso che Saramago avrà difficoltà a farsi pubblicare il libro, o sbaglio? Però io volevo fare questa osservazione, cioè per chiudere il mio argomento. Cioè, si ricorda pochi giorni fa che Berlusconi ha fatto quell'amabile affermazione che diceva che se qualcuno vuole fare del male o fa il giornalista, il giudice o il delinquente, no? Sì. È una cosa carina che lui dice. Ma sono le stupidaggini, le battute certo, che vengono fuori a Berlusconi. Assolutamente. Ne potremmo commentare però migliaia di questo tipo di Berlusconi in questi 14 anni. Un'altra affermazione però che a me ha dato, e questo volevo dirle, è che l'altra sera ha detto sempre che la stampa estera lo attacca perché o è corrotta dalla sinistra, cioè corrotta tra virgolette, insomma influenzata, come la moglie fra l'altro, anche lei poverina, oppure che scrivono quelle cose perché sono dei dipendenti del suo concorrente Murdoch. Allora io le faccio osservare una cosa: quando l'altra sera Franceschini ha detto a Belpietro lei è un dipendente di Berlusconi, lei ha detto ma dicendo così voleva mettere in dubbio l'affidabilità di Belpietro, e questa non mi sembra una cosa carina, giusto? Ora quando Berlusconi fa la stessa affermazione, ma non è che la mette in dubbio, lui la afferma, quei giornalisti scrivono quelle cose contro di me perché sono perché diretti, glielo dice, perché glielo dice, perché il suo editore, dice il suo editore. Cioè questo mi sembra molto più grave. Sì, sono le due cose, non sono paragonabili, quello che è successo per due sere a Ballarò. Comunque la frase sui corrispondenti esteri è stata pronunciata anche oggi a Matrix. La stampa estera subisce ciò che scrivono gli inviati che sono in Italia e che sono collegati alla sinistra. Questi inviati sono pagati a pezzo, e se scrivessero la verità, e cioè che il governo va bene a un gradimento vicino al 60% e il premier tra il 70 e il 75%, voi pensate che gli chiederebbero di scrivere tanti pezzi tutti uguali? No. Questo sulla stampa estera oggi. Miguel Mora è corrispondente del País da Roma. Buonasera. Ciao, come va? Buonasera. Sopravvivo. Lei è collegato alla sinistra? Io ho la tessera del Partito Comunista, russo, italiano, spagnolo, tutte. Sono un comunista della prima ora, di vecchia data. Di vecchia data. Vecchia data, partigiano anche, sì. Partigiano dove? Spagna contro Franco? Ho 44 anni, però vabbè. Vabbè, 44 anni negli anni 70? No, per fare il partigiano, sì. No, certo. Beh, per fare il partigiano. Ma con i pezzi pagati a, come ha detto, i pezzi inviati sono pagati a pezzo. Lei è pagato a pezzo? No, lei è stipendiato, no? Non si capisce bene perché il giornale della sua famiglia ha pubblicato l'altro giorno una doppia pagina che diceva che noi corrispondenti viviamo la dolce vita romana, tagliolini, tartufo, terrazzi, così, no? E, no ci, qualcosa, qualcuno è sbagliato qui, ossia, o veniamo pagati a pezzi o fate la dolce vita. Una dei due. Le due insieme non si può. Poi di solito, per esempio, per quello che riguarda il paese, non mi sembra che lei sia pagato a pezzo, no? Viene... Vabbè, lasciamo perdere. Senta Mora, forse avverrà un giorno, perché anche detto il Presidente del Consiglio che non si legge neanche il 0,1 della popolazione, allora avverrà questo anche, ma per il momento no, per il momento siamo vivi e ben vivi, perché il pezzo di oggi ha fatto 4 milioni di visite sulla web, allora può essere tranquillo il Presidente che qualcuno ci legge. Senta una cosa, perché il Paese ha deciso di pubblicare quelle 5 foto che sono presenti oggi anche su alcuni siti italiani, lei lo sa? Sì, viene spiegato molto breve ma chiaramente sull'editoriale, dove si dice che non si tratta della privacità, non siamo noi che attacchiamo la privacità del Premier, ma lui che ha fatto sempre una confusione enorme sulla privacità e sul pubblico e il privato. Ah, sul pubblico e il privato, sì. Che mi sembra che questo sia il segno vero della sua carriera politica, anche del suo programma politico. Però questa è la spiegazione, Mora, filosofica, è d'accordo, su questo posso anche essere d'accordo. Il problema è un altro, sono scatti, come lei sa, non so se siano gli stessi, sequestrati in Italia, perché non si può, secondo le normative italiane, secondo il garante della privacy... Preventivamente, mi sembra, no? Non c'è ancora un giudizio né del garante né della fiscalia, né un'imputazione su nessuno. Bravo, così è così. Allora, questo lo sappiamo benissimo, non abbiamo fatto mica una cosa non pensata, è stata una cosa pensata... Cioè, siccome non c'è un giudizio, avete pensato di poterle pubblicare? Ma sono loro che hanno fatto sapere la gente che queste foto esistevano, nessuno sapeva niente, e la denuncia di Berlusconi, del suo pugno e lettera, che è fatta al garante, che fa questa denuncia e che fa conoscere alla gente che queste foto esistono, voglio dire, l'interesse viene creato da lui. Al di là del fatto che l'interesse viene creato da Berlusconi o no, però secondo lei il fatto che ci sia qualcuno che si mette a un chilometro di distanza con un teleobiettivo a riprendere delle immagini all'interno di una casa è una cosa legittima oppure no? Vabbè, non mi sembra che sia il caso di dire che le foto sono fatte dentro di una casa, dietro i vetri, in situazioni particolarmente cattive, mi sembra. Peraltro i visi non sono visibili, non sono riconoscibili, tranne quello del Presidente. E quindi la privacy della gente che apparisce è garantita dal fatto che nessuno sa chi siano. E dall'altra parte la residence del Premier italiano mi sembra che è un parco da 60 ettari, grande come un, diciamo, con spiagge private, piscine dappertutto, e mi sembra difficile capire quale siano i limiti della privacy lì, no? Una dove ci sono 200, forse 200 persone infette. Vabbè, uno può avere una casa anche di 300 metri. E anche una casa del Presidente del Consiglio, dove vengono invitati politici, artisti, gente pubblica, no? Quindi lei sta già i giudici a dirlo. Certo, non c'è dubbio. Lei sta già delineando la denuncia, saranno i giudici a dirlo. Comunque per noi l'importanza di pubblicare questo è proprio quella, è proprio che l'elasticità del concetto tra il pubblico e il privato di Berlusconi non è lui che la deve far imporre agli altri, mi sembra. Quando viene imposta dall'alto diventa un regime, una dittatura, no? Sì, però lasci perdere il regime e la dittatura, perché non è che siamo in questa situazione. C'è una situazione molto particolare, c'è delle foto in cui c'è anche, tra l'altro, l'allora primo ministro ceco. Lo ha detto lui, noi non capito, però le pubblicate le foto. La decisione di pubblicare le foto non è che le regole della privacy possono valere. La Spagna non è un paese, insomma, è un paese che è l'Unione Europea. In Italia c'è un procedimento in corso. È un azzardo oppure no? Un azzardo in che senso? Cioè, un azzardo rispetto a un giudizio che potrebbe, cioè, se in Italia si decidesse alla fine che queste foto sono impubblicabili perché violano la privacy, insomma, potreste incorrere anche voi in qualche sanzione. Oggi è stata annunciata una querela anche nei confronti del paese. Non lo so, questo lo diranno i giudici, no? Se, se arriviamo a, a fare alla causa, non, non si sa veramente. Ma il fatto è che la, l'idea di pubblicare le foto non, è, non, non ha niente da fare con la privacy né con lo scandalo. È, cioè, secondo lei la privacy in questo caso non esiste? Secondo, le, secondo me lui è un personaggio pubblico. E anche dentro casa sua può essere fotografato in questo modo? Sì, certo, ma non, non, non diciamo che un appartamento di 50 metri quadri, no? Mi, beh, ho capito, non è che però la privacy dipende, diverse, la privacy non dipende sono, dalla... Sono dalla... elastiche anche in questo senso, no? Ma la privacy non lui può dipendere dalla, dall'appartamento. Un europeo che peraltro ha un programma politico basato, fra altre cose, nel Dio, patria e famiglia, che si vede che non, non è che sia una trilogia che lui... Sì, però queste sono considerazioni politiche che possono essere giuste, certo, o sbagliate, condivisibili o meno. In questo caso, no, certo, però io dico, lei ha detto che la, la, siccome lui non ha un appartamento di 50 metri quadri, ha una villa di... Voglio dire che, la, che, la, che, la, che il concetto della privacy in una villa di 60 ettari non è lo stesso che in una casa con, che, coperta dai vetri, che voglio dire, le foto non sono delle stesse, della, della stessa indole, non, non è la stessa cosa. Ho capito, ho capito. Ma comunque questa cosa... è una cosa che non decidiamo noi, che decideranno i giudici. No, però lei, noi, lei, noi lei... abbiamo deciso di pubblicarle perché pensiamo che l'informazione che danno è un'informazione che non, lui non voleva che no, ma quindi l'intento, l'intento l'ho capito benissimo. Lei però dice, secondo noi la privacy non esiste perché, anche se poi decideranno i giudici, perché una cosa è un appartamento piccolo, una cosa è una tenuta. Il più importante, no, no, guardi, no, non facciamo la caricatura adesso dell'appartamento piccolo e la villa. No, grande, è quello lei ha detto. Sto dicendo che lui, come l'uomo più ricco d'Italia, uno dei più ricchi d'Italia, e come si sta vedendo anche nel caso dei voli, sì, confonde tutto il tempo il privato e il pubblico. I voli di Stato sono i voli, sì, di... Questo lo posso capire, ma non è che il fatto di essere potente... devo mandare i telegiornali. Mora, un attimo solo, devo mandare i telegiornali e poi torno con lei. 21 minuto, TG5, titoli. Berlusconi al TG5, il governo ha fatto molto ma andremo avanti con le riforme, è un voto importante perché l'Italia conti di più in Europa. Da Franceschini a Bossi, da Casini a Pannella, ultimi appelli dei partiti per le europee, da domani si vota, urne aperte dalle 15 alle 22, domenica dalle 7 alle 22. Obama in Germania, nel lager di Buchenwald, ricorda l'orrore dell'Olocausto e dice il presidente iraniano Ahmadinejad dovrebbe venire qui, inaccettabile negare la storia. Non sono dell'Airbus francese precipitato nell'Oceano Atlantico i rottami recuperati in mare. Da Parigi un sottomarino nucleare per le ricerche delle scatole nere. Un ex muratore spara al sindaco di un comune del Pavese per liti di vicinato, ha confessato dopo l'arresto. Il sindaco, colpito al volto, non è in pericolo di vita. Ridere non è un'esclusiva degli esseri umani, lo fanno anche le scimmie, lo abbiamo imparato tutti dal nostro antenato comune 16 milioni di anni fa. Scatta il valzer delle panchine, Ciro Ferrara mister della Juve per 2 anni, Zenga al Palermo, Gregucci all'Atalanta. Anche il TG1, andiamo. Elezioni europee amministrative, si vota domani pomeriggio e domenica tutto il giorno, alle 1:34 milioni di elettori. In tutta Italia gli appelli dei leader politici, al TG1 le interviste di Silvio Berlusconi e Dario Franceschini. Da Buchenwald il presidente americano Obama ricorda l'orrore dell'Olocausto e dice chi lo nega venga qui. A Roma caccia l'uomo che ha stuprato una giovane nel garage di casa, aveva il volto coperto, un gesto premeditato. Tela di jeans, Genova dedica una 3 giorni all'invenzione di 500 anni fa che ha cambiato il nostro modo di vestire. Dalla Fiat HP del 1907 alla Ferrari Testarossa, esemplari unici a Maranello per raccontare 100 anni di storia dell'auto. Eccoci qui, dunque, conclusione con Miguel Mora, che è corrispondente del Paese. Al di là della questione giudiziaria, saranno i giudici a decidere, naturalmente, lei diceva prima, su questo non c'è il minimo dubbio. Lei però ha fatto un'osservazione. Siccome la tenuta dove sono state fatte queste foto del Presidente del Consiglio è molto ampia, 60 ettari, lei ha detto, insomma, adesso non stiamo a precisare quanti ettari è, rispetto a un appartamento, diciamo, più piccolo, diciamo che la privacy viene un po' meno. È un concetto un po' bizzarro, Mora, però, della privacy, questo, eh? Mi permetto ma di osservare. Guardi, lui è un uomo pubblico o è un uomo privato? Che cosa è? Un uomo pubblico, un uomo pubblico naturalmente, allora, ma anche, allora, un uomo pubblico ha diritto alla sua privacy in alcune occasioni. Un uomo pubblico è pubblico sempre, se lui non si vuole esporre, allora che non si esponga, che rimanga dentro casa. Guardi, io che vuole che gli dica io? Mica ho fatto le foto, mica ho deciso di... No, ma stiamo parlando, parlando tranquillamente di privacy, no, di quello che è pubblico. No, ma lei parla del diavolo, guardi, io non faccio l'avvocato di nessuno, mi scusi. Certo, sì, io non faccio l'avvocato di nessuno, io le ho chiesto una cosa e lei mi ha detto... Un giornalista che preferisce forse non informare, forse questo, che le cose non ma si cosa c'entra raccontare. Ma cosa c'entra questo? Cosa no, c'entra? C'entra tutto, perché stiamo parlando di un uomo pubblico il cui sta diventando un grande pericolo per la libertà stampa in Italia. Ma questo lo dice lei che è un grande pericolo per la libertà di stampa in Italia, ma questo non c'entra niente con la questione delle foto. E secondo me invece no. Secondo lei no. Questo che penso io. D'accordo, allora, comunque siamo pari, non mi sembra che lei abbia la verità scritta, no? No, ma certo che no, certo che no, neanche sulla privacy e sulla... Assolutamente, e infatti pubblica. È lei che attacca me, io non sto attaccando lei, io sto dicendo che secondo me lei ha un'idea... Lei dice che io faccio un concetto bizzarro, non ho detto che lei è un delinquente, non ho detto che lei è un delinquente. Lui è un uomo pubblico, no, io non l'ho accusato di niente, le foto peraltro non sono neanche scandalose, è un ambiente rilassato. No, ma io non ho detto questo. Non ho detto grave. Questo, io stavo semplicemente riflettendo. La situazione non è grave affatto, che viene mostrato in queste foto, vediamo soltanto un ambiente, un clima nel cui il Presidente del Consiglio passa le sue feste, le sue fine settimane. Non mi sembra che sia una cosa affatto grave. Assolutamente no, da questo punto di vista. Non mi sembra neanche che l'invasione sulla privacy, se non conosciamo i visi della gente, sia grave neanche. Questo comunque non lo so. Lei considera forse che è una invasione, forse sì. Non lo so, me lo domando. Mi sembra che difendere che le cose non vengano raccontate, non vengano mostrate è forse la tomba del giornalismo, no? No, non lei? No, Mora, non, sì, lei certo, sa benissimo, lei sa benissimo. Il giornalismo consiste in raccontare le cose che il potere non vuole raccontare. No, certamente. Tra altre cose. No, ma assolutamente. Quindi, se lei mi lascia parlare un attimo, però. Se lei mi lascia parlare un attimo, anch'io penso che bisogna raccontare le cose che danno fastidio al potere. Questo non significa che sia legittimo tutto, naturalmente. Questo concorderà anche lei, no? Ci sono. Certo. Per tutti, certo, per tutti esistono dei limiti. L'opinione pubblica si deve difendere degli abusi del potere. In questo caso, qual è l'abuso del potere? Mi scusi. In questo caso, non c'è nessun. La questione non è l'abuso del potere. Dico, mi sembra che voi, in questo momento, la vicenda dei voli d'estate. Ma questo che c'entra con le foto? Se ne guardi tutto perché le foto sono state sequestrate, peraltro, perché indicavano che i voli di Stato venivano utilizzati per personaggi. Prima del collegamento con lei, io ho detto una cosa: che in altre occasioni, un po' per confortare quello che lei sta dicendo adesso, in altre occasioni Berlusconi si è comportato diversamente, non ha querelato i giornali, eccetera. Erano state fatte le foto sempre all'interno di Villa Certosa. Dunque, da questo punto di vista, che ci sia una schizofrenia nella reazione di Berlusconi in questo caso mi sembra evidente. Ciò non toglie che quando io mi sono solamente permesso di dire a un certo punto che il paragone che faceva lei tra un uomo che ha una casa di 100 metri quadrati e un uomo. Lei è rimasto fermo in questa immagine, mi sembra che ha detto altre cose abbastanza e su quello non ho detto nulla. Il fatto più grave di tutta questa vicenda è che sono state sequestrate le foto che questo fotografo ha fatto in luoghi pubblici. Ma queste sono le autorità italiane, le autorità italiane, la magistratura, il garante della privacy, non le riconosce come autorità capaci di sequestrare? Ma lei sa che la Federazione dei giornalisti ha fatto una c'è un contenzioso, c'è un contenzioso, non so chi ha ragione e chi ha torto. C'è anche una indagine sul primo ministro per l'uso dei voli di Stato, ne parliamo da una settimana. Certo, allora mi sembra che tutto sia collegato, non gli sembra a lei che se queste foto sono state sequestrate, anche quelle dei voli, sarà per una ragione, per una denuncia fatta dal primo ministro. In questo caso c'è il diritto a informare, c'è anche il diritto di lui alla sua privacy, certo, e stanno in confronto. Mi sembra che questa sia questa situazione, possiamo andare avanti per anni con questa discussione. No, certo. Alla fine saranno i giudici, finalmente sì, se deve decidere che decidano, no? Ma assolutamente sì, però ripeto, sui voli di Stato si discute, non è la questione delle foto pubblicate o non pubblicate, si sta discutendo, ci sono gli esposti, c'è la magistratura che ha preso che ha preso atto della situazione, certo, e si deciderà se c'è un abuso d'ufficio oppure no, probabilmente, certo, si archiverà. Ma insomma, sono cose, ripeto, io mi sono semplicemente soffermato sulla sua considerazione e basta, sulla casa piccola o casa grande, la privacy che può valere in un caso può valere in un altro caso, semplicemente questo, insomma, senza voler fare nessun attacco. La ringrazio molto. Ok, grazie, grazie a lei. La discussione che abbiamo avuto con il corrispondente del Paese in Italia, Miguel Mora, ha avuto subito un riflesso sui vostri messaggi. Alcuni non ve li leggo perché non vale la pena leggerli. Si dividono come al solito tra chi dice: Cruciani, finalmente hai trovato qualcuno che ti tiene testa, e altri che invece sostengono più o meno questo. Li faccia sentire più spesso i corrispondenti dei giornali esteri, che così si capisce il perché di tanti articoli zeppi di pregiudizi e di falsità. Marco da Trento, un altro però, sempre per par condicio, così accontentiamo pure i fan della par condicio. Cruciani ha trovato pane per i suoi denti, visto come sono i giornalisti con la schiena dritta. Bravo Mora, bravissimo infatti. 20:12, andiamo a sentire gli ascoltatori. E andiamo soprattutto per quel concetto di privacy che vale per una casa di 300 metri quadrati e non magari per un piccolo appartamento di 30 metri quadrati. Bruno da Roma, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Io volevo dire semplicemente che qui non si tratta di fare il conteggio dei metri quadri o meno. Secondo me qui la cosa incredibile in questo paese è che non si va all'essenza del problema. Questo è un piccolo riassunto. Qualche settimana fa Repubblica se ne uscì con l'articolo sulle letterine candidate, che fu respinto dal Premier dicendo che non era vero, era solo da speculazione della sinistra. Poi le stesse letterine, tipo Sgarbosa eccetera, si sono lamentate perché erano state chiamate per partecipare alle liste, invece poi con l'uscita di Scudi anche della signora Veronica Vario la cosa è terminata così. A seguire poi è successa la vicenda Noemi con le assurde motivazioni, le speciose motivazioni del Premier, che vede, io per me come cittadino non importa sapere se lui ama le minorenne o meno, a me non me ne frega niente. La cosa che mi rende, che mi indigna in questo paese, è che una persona che fa un uso industriale della menzogna da anni, che ritiene di avere di fronte sempre un imbecille, perché la cosa che unisce il signor Berlusconi a quelli della sinistra che credono che quelli di destra siano degli imbecilli è la considerazione negativa del suo elettorato. Questa sarebbe, mi scusi, questa sarebbe la sua analisi pacata, così, diciamo, la sua analisi super partes della cosa, della realtà di quello che è accaduto negli ultimi 20 giorni. Cioè, complimenti. Io vorrei che fa un uso sistematico della menzogna, secondo lei, un'analisi, pacata della realtà, distaccata. Migliaia di esempi di questo. Sì, no, ma certo. Io vorrei chiedere semplicemente una cosa, sì, alla parte di italiani che non li reputo deficienti perché ho dei miei parenti che sono laureati che votano per Berlusconi, quindi li rispetto in pieno, diciamo alla parte innamorata dell'Italia. Io vorrei fare una sola domanda, vorrei, sì, che qualcuno di coloro che interverranno in trasmissione mi rispondesse. La mia domanda è questa: che cosa bisogna fare da parte di un primo ministro per indignare coloro che sono entusiasti di lui? Cioè, è mai possibile che cosa deve fare una persona? Deve, non so, sodomizzare qualche bambino eccetera? Io credo che lo giustificherebbero comunque. Lei sta un po' leggermente esagerando, però siamo una trasmissione in cui si esagera, va bene anche questo. Lei fa un appello a quelli che votano Berlusconi e chiede a queste persone cosa deve fare di più per farli rivoltare contro il loro idolo. Esiste l'indignazione in questo paese? Io questo mi... Sì, ma Bruno, guardi che ce n'è tantissima di indignazione in questo paese, forse anche un po' finta. La ringrazio. Dopo quest'altra interruzione, 800 24 00 24, prima di presentarvi un ospite vi dico subito che è la persona da cui tutto è iniziato, la questione dei voli di Stato, di questo stiamo parlando. Andiamo a sentire però Marco da Roma. Buonasera Marco. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Niente, io volevo soltanto dire che la sua discussione con il collega del Paese è stata abbastanza così troppo approfondita, diciamo, che in realtà secondo me è un falso problema quello delle foto che vengono fatte in una casa grande o piccola, perché veramente questo l'ha detto lui, questo l'ha detto, sì, lui. Infatti, quindi secondo me è molto più grave, anzi mi viene quasi il sospetto che tutto sia nato per nascondere i problemi insomma, il problema più grave, il processo Mills, per esempio, non se ne è parlato per niente, ed è, secondo me, gravissimo, no? Ma tutto è nato cosa, mi scusi, la questione di, che cosa, le foto, i voli di Stato per coprire altre vicende, ma insomma, qui la dietrologia è impazza. È assurdo discutere ore su foto che vengono prese in una grande villa con volti riconoscibili, perché se ne vedono tantissime. Poi che quella sia la casa di Berlusconi non credo che sia un problema. Che ma veramente foto dentro le case non è che se ne vedono, perché la gente non è che può essere fotografata mentre è dentro casa propria. Nelle barche d'estate, Porto Cervo è pieno di gente. Ma quello è diverso, quello è diverso, è un'altra cosa. Ma pubblici, no? Anche politici sono stati fotografati, quindi adesso, ecco, il fatto che lui Berlusconi vuole querelare eccetera, va bene, credo sia un suo diritto, però poi alla fine può succedere, può andare a finire come è finita con Luttazzi, che Luttazzi ha vinto la causa contro Berlusconi e nessuno più ne ha parlato, per esempio. Vabbè, la querela di Luttazzi non era mica per questione di privacy. No, per l'intervista a Marco Travaglio. Sì, ho capito, ma insomma non c'entra con la privacy, sono altre questioni. Lui, voglio dire, adesso, oggi, proprio oggi, i telegiornali con il fatto che vuole querelare, sì. Va bene, però poi vediamo come va a finire. E non lo so, vedremo come andrà a finire, mica tutte le cose vanno a finire allo stesso modo, Marco. Ecco, però va bene, cioè voglio dire, bene anche così. Secondo me il problema grave è stato che non se ne è parlato per nulla, il processo Mills. Vabbè. E appunto volevo chiedere anche questo, che se secondo lei il giudice di Milano che ha condannato Mills è anche lui comunista. Va bene, Marco, questa mi sembra una sciocchezza, insomma, mi sembra una sciocchezza, non lo so, non mi interessa se le idee politiche del... se non sono manifestate esplicitamente le idee politiche di un magistrato non mi interessano. L'avvocato Carlo Rienzi, eccoci qui, presidente del Codacons, buonasera. Buonasera a voi e a tutti quanti. Allora, Rienzi, il corrispondente del País prima, Miguel Mora, mi ha detto una cosa, che poi parleremo dei voli di Stato, eh. Mi ha detto che c'è una differenza, siccome il premier ha una residenza di 60 ettari eccetera eccetera, una cosa sa, 60 ettari invece non è un appartamento di 200 metri quadrati. Ora lei si occupa anche di cose che riguardano la privacy, questo mi sembra un concetto francamente assurdo, al di là delle decisioni che verranno prese poi su queste foto, no? Cioè, no, non ho capito però la mossa, siccome non ero all'ascolto, cioè, che voleva dire con questo? Secondo lei l'ho capito io, voleva dire che in realtà la privacy è meno protetta in questo caso, cioè è meno protetta, siccome è un appartamento, ci sono 60 ettari, la privacy è meno protetta rispetto a un appartamento di 100. La questione della privacy è un po' delicata. Io credo che l'equilibrio tra il diritto di un reporter, che non so dove diavolo si sia arrampicato per fare quelle fotografie, sì, che riesce a riprendere un personaggio pubblico, che potrebbe essere per esempio un famoso attore americano nella sua villa di Como, oppure un presidente del Consiglio, oppure che ne so, un cardinale, ovviamente fatto di tempi e differenze, e il diritto a non essere disturbati dentro casa è molto molto delicato, quindi io non mi esprimo. Cioè lei non è così certo, non è così certo che si possa parlare di violazione della privacy? No, vedrà che lì finirà che non c'è nessuna violazione, perché io ho il diritto come cronista di riprendere il capo di Stato estero, di riprendere i suoi invitati, di riprendere il premier, e anche se non per niente lui sta in una villa molto protetta, molto lontana dal pubblico, non ci si può avvicinare con i motoscafi eccetera, cioè perché sa che se qualcuno poi si avvicina può riprendere queste scene, ma credo che sia qui prevalga il diritto di cronaca nella ripresa di un capo di Stato. Naturalmente io censurerei, che ne so, se è nudo gli metterei una cosa davanti per non far vedere gli organi sessuali. Topolanek dice che è un fotomontaggio comunque. Vabbè, questo non lo so, però ecco, io credo che uno ha diritto, un fotoreporter, di fare questo mestiere come si deve, e chi è così importante sa che qualsiasi cosa fa anche dentro casa, nel giardino della villa, può essere oggetto di interesse per il diritto. Questo non lo so, sembra di no, però è da quello che dice il garante. Vabbè, della privacy. Vedremo. Sono certo, senta, no. Rienzi, ma voi avete acquisito un sacco di tabulati di voli di Stato, com'è possibile? Diciamo innanzitutto che no, com'è possibile, nel senso che non è così semplice. Diciamo innanzitutto che la prima denuncia da cui poi è scaturita l'inchiesta, tutti dicono che si arriverà all'archiviazione, vedremo. Sui voli di Stato in Sardegna, in cui c'è Apicella, in cui c'è questa ballerina di Flamengo, partono dal Codacons. Allora, voi ne avete acquisiti altri però di tabulati, no? Sì, io intanto vorrei dire che la nostra non è un'iniziativa estemporanea, perché nel libro La Casta, che è un libro abbastanza importante, noi siamo citati, il Codacons è l'unico associazione citata, perché facevamo la guerra alle auto blu. Sì. Quindi questo già negli anni 90. Quindi noi avevamo impugnato la delibera di Berlusconi del luglio 2008 nel settembre del 2008 e adesso attendiamo la decisione del Consiglio di Stato. Quindi non è che noi siamo intervenuti oggi. Vi siete svegliati oggi. Ci vogliamo inserire in una strumentalizzazione politica. Mm. L'avremmo fatto comunque. Mm. Quindi. Senta, mi dico una cosa, voi che siete così aggiornati. È vero o no, come scrivono tutti, che i voli di Stato sono aumentati a dismisura nell'ultimo anno? Sì, sono aumentati perché con queste direttive, anche quella precedente di Prodi non era granché, però Berlusconi ha tolto anche una parola esclusivamente che limitava un po' prima, e poi ovviamente poi, siccome questa direttiva dà una discrezionalità assurda all'autorità che ordina il volo, perché gli dice decidi tu chi deve salire in base certo a certi criteri che sono il rango, la necessità, eccetera eccetera. Quindi noi crediamo che è la direttiva che è sbagliata ed è espressione di un potere da imperatore. Ho capito. Non dovrebbe essere proprio esercitato in questo modo. Senta una cosa, Rienzi, voi avete scoperto però che sui voli di Stato salgono un po' tutti, sì. Amici, parenti, eccetera. Mi spieghi qualcosa, sì. mi racconti sì, qualche certo. episodio? Purtroppo salgono tutti, abbiamo visto addirittura le fidanzate di esponenti politici, anche di partiti che fanno della critica agli sprechi e della correttezza il loro verbo, e poi salgono veramente tutti, e quello che mi lascia perplesso è quando si dice non è reato, ecco, a parte che ci sono tante cose che non sono reato ma sono delle vere schifezze, non è vero che si possa utilizzare quello che noi paghiamo come cittadini se non si, come si dice, non si spende un euro in più, dice tanto l'aereo parte lo stesso, metto quattro persone in più. Perché immaginiamo, faccio sempre questo esempio, che il Presidente della Repubblica faccia un ricevimento al Quirinale, al giardino del Quirinale, per un capo di Stato estero. Sì. Ordinano tanta roba da mangiare e lui dice, beh, facciamo una cosa, facciamo anche il compleanno a mio nipote. Tanto la roba poi si butta. Invece se noi utilizziamo queste cose anche per festeggiare con 10 amichetti il compleanno, non sprechiamo la roba, invece di buttarla diamo, ma le pare possibile una cosa del genere? Cioè, e questo è un abuso di atti d'ufficio, secondo me. Vabbè, questo poi adesso che sia un reato adesso si vedrà. Comunque, secondo me, no, è l'elemento soggettivo che viene meno, perché se c'è un atto amministrativo generale che autorizza esatto. questa discrezionalità che rasenta l'arbitrio, poi qualsiasi giudice archivia perché dice sì, ma c'era una direttiva che autorizzava. Sì, ecco perché sì. noi siamo partiti lancia in resta prima contro la direttiva, e il 9 giugno ci aspettiamo che il Consiglio di Stato la tolga di mezzo. Poi la questione della denuncia penale era doverosa, perché siccome riteniamo che la direttiva non ci debba essere, è chiaro che chi fa salire sull'aereo un estraneo, commette, secondo noi, può essere quantomeno accusato di un reato. Poi vedrà la magistratura. Senta, ma quando si dice lo fanno un po' tutti, però insomma mi racconti qualche episodio, perché la gente sennò non capisce. Ma non so, per esempio a Venezia tutti i trasporti dall'aeroporto alla città e i giri dentro la città venivano fatti in grandissima quantità sui motoscafi della Guardia di Finanza. Noi ne abbiamo contati oltre 40, ma insomma non si capisce, cioè i vaporetti sono come se fossero appestati per chi ha una carica o chi deve andare in giro con qualcuno avendo una carica. È una cosa che ci ha e chi li faceva? Chi li faceva questi giri sui motoscafi della Guardia di Finanza? Come? Chi li faceva? Chi li autorizzava questi questi motoscafi. Guardi, sul mio blog c'è l'elenco completo di un documento che dice tutti quelli che hanno utilizzato questi mezzi con nome e cognome, motivazione, eccetera. Il blog è www.carlorienzi.it, così facciamo prima. Certo. L'hanno utilizzato tutti i ministri, i sottosegretari dei governi precedenti. Questo è un documento che va dal 2001 al 2007 praticamente, sì, quindi sì. Diciamo, è un po' datato, però è uno spaccato di una realtà che è sconcertante, cioè come se i nostri soldi, di noi cittadini, venissero spesi legittimamente da questi signori per fare il piacere o il favore o fare la bella figura col tal amico, parente, menestrello o ballerina o fidanzata. Senta Rienzi, per concludere, lei lo sa la regina Sofia in Spagna che cosa ha utilizzato recentemente? Sì, lei è informato? No, mi... No, glielo dico, un volo, lo dico per la terza volta di seguito, tanto ormai siamo in chiusura di settimana, un volo Ryanair per andare da Londra a Santander, perché costava intorno ai 15 euro. La regina Sofia, la regina di Spagna. Guardi, io le potrei dire che questo è l'esempio di un buon governo, però a me sembra questo un'esagerazione un po' snob, come lo era Prodi che andava in vacanza guidando la sua macchina con la famiglia e i bagagli sul tetto. Io credo che un capo di Stato debba poter andare con un aereo anche di servizio, però senza portarsi credo dietro. Che non debba portare estranei. Ecco. La ringrazio molto, buona serata. Titoli del TG2. Berlusconi, dopo la pubblicazione sul Paese delle foto di Villa Certosa, accusa: contro di me un'aggressione mediatica. Così rincara il Presidente del Consiglio alla sinistra, fa danni all'Italia. Ultime battute della campagna elettorale, chi non va a votare, dice Franceschini, vota Berlusconi. Casini contro la Lega che ribatte, noi abbiamo mantenuto le promesse, per Di Pietro il governo ignora la crisi. Obama in Germania rende omaggio alle vittime dei lager nazisti, primo presidente americano a visitare il campo di Buchenwald, ha subito negare l'olocausto, Ahmadinejad venga qui. Si tinge di giallo la tragedia dell'Airbus, non sono dell'aereo i rottami in mare, in fumo tutte le ipotesi e ora Parigi non esclude l'attentato. Confessa l'uomo che nel Pavese ha sparato a un sindaco davanti al municipio, non faceva nulla per difendermi da un vicino, il sindaco colpito in pieno volto non è grave. I misteri e la storia della banda della Magliana, il più potente gruppo criminale della capitale negli anni 70 e 80, l'ultimo boss ucciso ieri in un agguato fra i passanti. Alessandra da Roma, buonasera. Buonasera, salve Cruciani. Allora, io le volevo fare una precisazione per quanto riguardava il fatto che lei ha detto che nessuno della sinistra ha dato un giudizio per quanto riguardava le foto di Villa Certosa. Invece ieri Franceschini, su domanda precisa del conduttore su che cosa pensasse su questa lesione della privacy di Villa Certosa, ha risposto molto chiaramente, ha detto Berlusconi ha fatto benissimo a denunciare la lesa privacy. Al contrario però, mentre su questa cosa ha dato una cosa netta, ha detto diverso è il discorso delle foto sui voli di Stato, su cui ovviamente c'è tutto un altro discorso da fare. Non è un discorso di reato, come diceva lui, dice il reato lo vedrà la magistratura, ma è un discorso di come dire, di opportunità, di se è una cosa che vada fatta o meno. Quindi questa era la prima cosa che volevo dire. No, questo è importante, non lo ricordavo di questa presa di posizione, come sa Matrix va in onda in orari incredibili, però mi segnalano che in realtà c'è anche l'audio di questa cosa, sentiamo. Penso assolutamente che abbia ragione a difendersi la privacy di quello che avviene in casa sua. Cosa completamente diversa di chi sale su un volo di Stato. Non è che è tutto uguale, tutto ogni erba un fascio. Casa sua è un problema suo. Il volo di Stato è un problema dei soldi degli italiani. Chi ci sale, dove vanno, come vengono spesi. Due cose diverse. Franceschini ha fatto benissimo allora. Mi correggo, il leader del Partito Democratico ha detto questa cosa. Berlusconi fa bene a difendere la privacy casa sua. Non è entrato nel merito delle foto del Paese. Oggi... Io volevo dire prima che dopo la querela di Berlusconi, dopo l'annuncio della querela stamattina di Chedini, dopo l'apparizione delle foto sul Paese, cioè Franceschini non commentava l'apparizione delle foto sul Paese. Io quello che volevo dire prima è che dopo la pubblicazione delle foto sul Paese non c'è stata, mi sembra, nessuna particolare reazione. Queste frasi, queste frasi di Franceschini, che comunque sono positive secondo me, sono di ieri sera. Prego. Certo, che ci sono, secondo me, a parte queste foto in Villa Certosa, diciamo, ci sono argomenti più importanti da, per cui prendere posizione. Secondo me, per esempio, lei ha detto anche un'altra cosa, diciamo, ha fatto una comparazione con Gordon Brown. Gordon Brown non si è dimesso perché, nonostante alcuni suoi ministri siano stati coinvolti in, diciamo, abusi economici di circa 10 euro. Ha ragione, però Gordon Brown non è stato accusato di assolutamente nulla, di nulla, di nulla. Al contrario, Berlusconi è stato sì accusato da un magistrato di aver corrotto Mills e non va a processo per il semplice fatto che è protetto da Lodolfano. Quindi sono due persone che, seppur capi di Stato, hanno due profili assolutamente differenti. No, ma il mio paragone non era con Lodolfano, con i processi di Berlusconi, perché bisogna sempre mettere in campo questi argomenti. Io stavo parlando di un'altra cosa. Ho detto che alla domanda di un ascoltatore che mi chiedeva: ma in quali occasioni secondo lei si può dimettere un premier? Io ricordavo anche in Gran Bretagna, dove pure, come dire, la soglia insomma, ci si dimette per cose che in Italia sono impensabili. Nonostante le critiche, nonostante le dimissioni di vari ministri, Gordon Brown resiste, non si dimette, anche nella Gran Bretagna, dove scandali di questo tipo di solito portano alle dimissioni. Poi, se vogliamo parlare di Lodo Alfano, delle cose, è un altro discorso. Va bene, questo però mi sembrava, insomma, il confronto poco pertinente in questo senso, proprio come confronto. Però un'altra cosa, io le volevo dare anche un'altra interpretazione. Lei ha detto Berlusconi, secondo me, è schizofrenico nella doppia reazione alle foto pubblicate di Villa Certosa, dello stesso fotografo che l'aveva fotografato con delle ragazze in braccio. In quel caso, dice, lui non aveva fatto nessuna denuncia, invece adesso denuncia. Secondo me c'è un motivo. Allora, in quel caso lui non ha denunciato perché il fatto di avere delle ragazze in braccio, come sappiamo il premier è ben contento di avere questa immagine agli occhi degli italiani, che gli rende molto, anche dal punto di vista, secondo me, elettorale e personale. Al contrario, in questo caso c'erano delle foto che comunque, dei voli di Stato, che lo mettono in imbarazzo. No, ma le foto non si riferiscono ai voli di Stato, eh? Le foto sono di Villa Certosa, i voli di Stato si possono fotografare sempre. Appunto, quindi lui ha denunciato perché venissero sequestrate l'insieme di tutte le foto, sia quelle di Villa Certosa che quelle dei voli di Stato, No. Le foto oggetto del sequestro, le prove, io non lo so esattamente quali sono 41 scatti, riguardano solo foto di Villa Certosa. Le foto sui voli di Stato sono pubblicabili, sono state pubblicate nei giorni scorsi sui giornali, quelle che ritraggono Apicella mentre scende anche quella ballerina di flamenco, insomma, quelle sono pubblicabili tranquillamente. Sulle foto all'interno di Villa Certosa, certo, un dubbio c'è. Secondo me non sono pubblicabili, questa è la mia impressione. Secondo Rienzi sì, probabilmente. Ma diciamo che forse è abbastanza ininfluente, questo è davvero sì gossip, però questo è gossip. Cosa è altre gossip? Cose non sono gossip. Questo di Villa Certosa, di andargli a vedere con l'obiettivo le donne nude, questo sì, in effetti non interessa a nessuno, perché non c'è nessun estremo, forse fa veramente quello che gli pare in casa sua. Però invece, appunto, le foto dei voli di Stato, quelle sì che sono importanti, secondo me, più importanti per dare un giudizio su un comportamento di un capo di Stato. Ma infatti quelle sono diffuse tranquillamente, non si discute delle foto, anche perché, sa, cara Alessandra, sono foto prese all'aeroporto di Olbia, adesso non so dove esattamente, o anche forse in una pista privata, no, credo che fossero all'aeroporto di Olbia, per cui, insomma, un fotografo, quando si tratta naturalmente di soggetti che si possono fotografare, di soggetti più o meno pubblici, quelle foto le possono fare. Va bene, io grazie Alessandra di questo intervento. Emanuele da Milano, più veloci, perché ci abbiamo verso la conclusione. Emanuele, dica. Sì, buonasera, volevo fare innanzitutto complimenti alla trasmissione e a lei in particolare, Crociani. Poi il mio intervento sarà brevissimo. Siccome si parlava appunto di quando è violazione della privacy o meno, e Berlusconi, insomma, sosteneva che queste foto erano assolutamente impubblicabili ed erano una fortissima privazione, insomma, violazione della privacy. Sì, dopo aver detto in realtà nei giorni scorsi che le foto sono pubblicabili, da Vespa ha detto: a me sembrano pubblicabili, si possono, adesso non so se si riferisse proprio a quelli, per cui una piccola contraddizione c'è in questo caso. Comunque, Emanuele, che voleva dire? Io volevo dire che nei giorni scorsi, e da ultimo anche oggi, mi è arrivato un SMS sul mio telefono, che peraltro è aziendale, quindi non so come abbiano fatto, diciamo, ad utilizzare questo numero, con un messaggio di propaganda elettorale da parte, diciamo, del partito di Berlusconi. Scheda grigio, vota questo, fidanza la russa Berlusconi per contare di più in Europa e così via. Quindi il discorso è, questa invece non è violazione della privacy? Secondo me sì, però... lascio, diciamo, questo quesito e mi piacerebbe avere una sua risposta. Perché le ho già risposto, Emanuele, secondo me sì, se lei non ha aderito a nessun tipo di pubblicità di questo tipo, è evidente che si tratta di una violazione della privacy. Cioè, non vedo perché sono tenuto a ricevere sul mio telefonino un messaggio di propaganda elettorale. La ringrazio. Fabio da Milano, ancora più veloci. Fabio, dica. Sì, buonasera. Allora, io mi ricordo che la Merkel, quando fu eletta qualche anno fa, passò qualche giorno di vacanza all'isola di Capri o di Ischia, in un albergo abbastanza esclusivo, col marito. Sì. Ora, con tutto bene che voglio la Merkel, in costume da bagno non è il massimo da vedere, no? Ricordo che Sestini, forse, il fotografo che ha fatto le foto, fece lo giro d'Europa, le pubblicò la Bild, le pubblicò Oggi o chi per esso. Non ricordo però una protesta ufficiale né della Merkel né del cancellierato tedesco, e la cosa scusi, la Merkel non era a casa sua, questa è la differenza. No, la Merkel era in un albergo. Ma non c'entra niente, Fabio, si sbaglia, non è in camera sua in albergo. Quando la Merkel è in un albergo, anche in vacanza, resta... non c'è nessun dubbio sul fatto che si possano fare le foto. No, gentilmente, però mi consenta di finire, perché attenzione, il concetto di privacy, abbiamo visto prima con l'avvocato Rienzi, che è più esperto di me, è abbastanza labile. Le dico, se io vado in un albergo e affitto l'albergo, come ha fatto la Merkel, perché aveva anche la security, non era con altri ospiti, era da sola col marito in quell'albergo, che era piccolo, quindi diventa casa sua, perché lei legge in quel momento il suo domicilio, lei deve essere tutelata sulla sua privacy. Nonostante questo, ripeto, Sestini o chi per esso ha rubato quelle foto, in termine tecnico, da paparazzo, foto rubata. Lei non sapeva di essere ripresa, tant'è vero che è in atteggiamenti anche... Fabio, io non so se sia stata fatta, non credo che ci sono state iniziative giudiziarie. Ripeto, è una cosa molto diversa essere fotografati in un albergo o a casa propria, è molto diverso. Lei non ha eletto il suo domicilio, la piscina dell'albergo, avrà... dal punto di vista giuridico avrà letto il suo domicilio in camera, è una cosa molto diversa. Fabio, mi perdoni, vorrei trasformare il mio intervento su un dibattito sulla privacy, non sono esperto e forse e non allora... è nemmeno lei. Le volevo però dire, in quel caso poteva però esserci una protesta, perché lei lì non ne usciva bene come uomo di Stato, perché tutti la vedono come mamma l'ha fatta. Vabbè, lei vuole questo sottolineare la differenza di reazione tra Merkel e Berlusconi. Le ricordo Bolloré, che ha prestato la sua barca a Sarkozy. Sì. E la Francia si è indignata non della privacy violata, ma del fatto che un presidente appena eletto fosse... Questo l'abbiamo già detto nei giorni scorsi. Anche qui, magari l'ho persa, no, anche qui essere a largo su una nave e essere fotografati è ormai universalmente accettato. La questione è essere ritratti all'interno della propria abitazione, può valere per Berlusconi o può valere per qualsiasi altra persona. La ringrazio, no, ho dei dubbi, ancora non sono sicuro, Fabio, su questo, però credo che siano situazioni differenti. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao.